sì, fiero destino, che prigioniero io sono. Nella crudel giornata che Tamerlan vinse mio padre in campo, con la mia libertà perdei me stessa. Mi soffiene allor quando la vista del mio pianto, Andronico il granduce abbassò il brando. Mi vide, il vidi, e parve che chiedesse la vita quel che veniva ad arrecar la morte, che più l'amai ed amo. Or lo spietato sol pensa alle corone e me qui lascia alle catene ingrato.